Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Lo spettacolo Il Castello di Cappa di Massimo Roberto Beato, dal romanzo Il Castello di Franz Kafka, regia Jacopo Bezzi, con Massimo Roberto Beato, Nicoletta Laterra, Lorenzo Venturini, Brunella De Feudis, Uco Benini, musiche Angela Bruni. Tutto immerso nell'oscurità. Si riesce a malapena a vedere la collina. Mi dispiace enormemente recarvi disturbo, ma ho bisogno di un rifugio per la notte. Non ci sono camere da affittare. Come sarebbe a dire che non ci sono camere? E questa non mi sembra l'ora giusta per presentarsi qui. Meglio se provo altrove. E chiuda la porta. Sta entrando il freddo. Ha voglia di scherzare? E dove vuole che vada? Ha provato a dare un'occhiata qui fuori? Certo che lei è curioso forte. Si presenta nella mia locanda a quest'ora della notte. Mi fa delle richieste assurde. E ha anche il coraggio di usare con me questo tono. E da quando chiedere una camera in affitto in una locanda è una richiesta assurda? Le camere sono tutte già affittate e lo resteranno per molto. Se proprio insiste può sistemarsi lì per la notte. È tutto quello che ho ad offrirle. Dunque? È perplesso circa la sistemazione che le ho offerto o cosa? No, anzi... Allora che aspetta? È tardi. Non vorrà fargli restare alzato tutta la notte. Ludo, presto, deve svegliarsi assolutamente. Diavolo, ma che succede? Questo villaggio è proprietà del castello. Chi abita o pernotta qui, in un certo senso, abita o pernotta nel castello. Nessuno può farlo senza il permesso del conte. Lei non ha questo permesso, o almeno non l'ha mostrato. Ma in quale villaggio mi sono perduto? C'è un castello qui. Sicuro! Il castello del signor conte West West. E per pernottare bisogna avere il permesso. Si deve avere il permesso oppure non lo si deve avere. Allora dovrò andarmela a prendere. Sì? E da chi? Dal signor conte. Non c'è altro da fare, no? Andare a prendere il permesso dal signor conte ora, a mezzanotte? Non è possibile? E allora perché mi avete svegliato? Che modo da vagabondo! Esigo rispetto dinanzi alle autorità del conte. L'ho svegliata apposta per comunicarle che deve lasciare immediatamente i territori del conte. Basta con la commedia. Sta esagerando, giovanotto. Mm? E domani riparleremo della sua condotta. L'oste e la sua signora là sono testimoni. Per quanto possa averne bisogno. Ma lasci che le dica che sono l'aggrimensore chiamato dal conte. I miei aiutanti arriveranno domani in carrozza con gli strumenti. Non volevo lasciarmi sfuggire una camminata sulla neve. Ma ho sbagliato strada più volte. Per questo sono arrivato a quest'ora. Che fosse troppo tardi per annunciarmi al castello, l'avevo capito da solo, senza i suoi insegnamenti. Per questo mi sono accontentato di questo pagliericcio. Dove lei ha avuto la scortesia, a dir poco, di disturbarmi. E con questo ho finito. Buonanotte, signori. Aggrimensore. Chiederò istruzioni per telefono. C'è un telefono qui. È appeso lì sopra. Ma forse è suonato come era, non se ne è accorto. Sì, pronto? Sono il delegato Schwarzer. Ah, il portinaio sta dormendo. Beh, da talora si capisce. Con chi parlo dunque? Sottoportinaio Fritz. Benissimo. La disturbo in merito a una questione di cui lei dovrebbe già sapere. C'è qui un uomo sulla quarantina, veramente male in arnese, tranquillamente addormentato su un pagliericcio. Naturalmente mi è sembrato sospetto e poiché l'oste non ha fatto il suo dovere andando fino in fondo alla cosa, ho provveduto io. Da un paio di risposte che mi ha dato sembrerebbe essere un tipetto molto arrogante. Afferma di essere un aggrimensore chiamato dal conte. Capisce che, almeno dal punto di vista formale, era mio dovere verificare tale affermazione. Sì, la pregherei, signor Fritz, informarsi alla cancelleria centrale se è realmente atteso un aggrimensore. Sì, sì, sì, aspetta, sì. È andato ad informarsi. E lei è ancora lì sdraiato? Non sembra neanche minimamente incuriosito. Ma perché dovrei? Sì. Ah, lo sapevo. Grazie per la collaborazione. Sembrano prendere molto sul serio il proprio dovere lì alla cancelleria centrale. Se lavorano con tanto zelo perfino la notte. La consiglio di fare meno lo spiritoso. Lo sapevo io. Nessuna traccia di aggrimensore. Si tratta di un volgare vagabondo bugiardo e forse peggio. Aspettate un momento. Forse è il caso che qualcuno risponda. È sua la locanda, no? Cosa pretende, che risponda io? È più facile che sia per lei. Potrebbe essere la cancelleria. E per quale motivo? E rispondo io. Pronto? Sì, è qui. Glielo passo. Signor Spazer, è per lei la cancelleria. Sì? Un errore. È davvero spiacevole per me. Ha telefonato il capo ufficio in persona. Strano, strano, grazie. Come lo dirò al signor aggrimensore? Beh, allora? A quanto pare sembra che il castello l'abbia nominata aggrimensore. È quello che vi avevo detto io. E ora che si fa? Se il signore qui è veramente un aggrimensore nominato dal castello, non possiamo lasciare che dorma sul pagliericcio. È proprio di no, Gardena. Ma se avete detto che tutte le camere sono affittate. Appunto, però forse L'oste potrebbe farla dormire nella sua stanza, in attesa di un'altra sistemazione. Giusto, Frida. È proprio quello a cui stavo pensando. A quanto pare forse è il caso che... Ah, non c'è bisogno, guardi. Ha già fatto abbastanza. Tenga. Offre la casa. Insisto perché si trasferisca nella mia camera. Grazie, ma non occorre. Preferisco restare qui. Prenda almeno questo catino e qualche asciugamano. Avrà bisogno di rinfrescarsi. Sono uscito col sole pieno e già si è fatto buio. È stata una passeggiata interessante. Sono stato via così tanto tempo. Quanto pare. Ero convinto fosse passata non più di un'ora. Due al massimo. Quando si è sorti i miei propri pensieri, il tempo sembra volare. Com'è andata la sua giornata al castello? A dire il vero sono riuscito ad arrivare solo fino al villaggio. Da lontano il castello sembrava avere le fattezze di una vecchia fortezza feudale. Invece avvicinandomi mi sono reso conto che assomiglia piuttosto a una vasta costruzione, composta da tanti piccoli edifici a più piani. Si direbbe più una piccola città. Sono riuscito comunque a distinguere bene soltanto una torre. Ma non ho capito se si trattasse di un'abitazione o di una chiesa. Non corrispondeva decisamente alle aspettative che mi ero fatto. Inoltre sembra essere molto fatiscente. Il castello non le piace dunque. Non piace a nessun forestiero. Mentre continuavo a camminare, d'un tratto mi sono reso conto che la strada non conduceva più verso la collina. Malgrado non si allontanasse dal castello, non ci si avvicinava neanche. Ho provato ad allungare il passo allora per capire se ci fosse un sentiero alternativo, ma ho cominciato a sentirmi sempre più stanco. Nonostante il cammino fin lì non sembrava avermi affaticato. Grondavo di sudore. E allora mi sono fermato. Avevo come la sensazione di essermi smarrito. Nonostante tutto intorno vedessi le casupole dei contadini. Così ho fatto una palla di neve e l'ho lanciata contro una finestra. Cosa ha fatto? Si è subito aperta una porta. Ed è uscito un vecchio. Gentile. E debole. Con la testa inclinata tutta da una parte. Gli ho chiesto se potevo entrare, visto che ero molto stanco. E senza dire una parola mi ha fatto accomodare. All'inizio non distinguevo bene l'interno, come ci fosse una spessa coltre di fumo. Però distinguevo delle grida di bambini che giungevano da un angolo. Non ho fatto in tempo a presentarmi, che una voce dalla penombra ha subito rimproverato il vecchio di avermi lasciato entrare. Il fumo poi nella stanza ha cominciato a diradarsi. Sembrava giorno di bucato, perché vicino alla porta si lavava la biancheria. Il vapore però veniva da un altro angolo, dove c'erano due uomini che facevano il bagno in una tinozza d'acqua fumante. Non ne avevo mai viste di così grandi. Da un'apertura, l'unica nella parete in fondo alla stanza, entrava una luce smorta dal cortile e illuminava in trasparenza il vestito di una donna stanca, sdraiata su una poltrona in fondo all'angolo. Allattava un neonato al seno. Attorno a lei giocavano alcuni bambini. La donna neanche abbassava lo sguardo sul neonato, ma fissava un punto indistinto nell'aria, Sono rimasto a lungo ad osservare la scena. Immobile. E triste. Poi però devo essermi addormentato. Subito dopo una voce mi ha svegliato, rimproverandomi, dicendo che non potevo restare. Ho ringraziato lo stesso per l'ospitalità. Ma quella stessa voce ha detto che non è loro costume essere ospitali, che non hanno bisogno di ospiti. Mentre uscivo, poi, lo sguardo mi è di nuovo caduto su quella donna coordinata al seno. Le ho chiesto chi fosse e mi ha detto essere una ragazza del castello. Tutto è durato un attimo, però, perché gli uomini mi hanno afferrato e messo con forza alla porta. Io volevo proseguire per il castello. Così ho chiesto un passaggio a un signore con la scritta, ma l'uomo si è rifiutato. Allora gli ho chiesto almeno di portarmi qui alla locanda e eccomi qua. Che storia affascinante! Ah, ma non è una storia, è quello che mi è successo prima. Certamente. Le presento i suoi aiutanti. Arrivate molto tardi. La strada era lunga. E dove sono i vostri strumenti? Non ne abbiamo. E vi intendete di agrimensura? No. A guardarvi sembra molto difficile distinguervi. E vi somigliate molto. Come avete detto di chiamarvi? Non lo abbiamo detto. Oh, giusto. E come dovrei chiamarvi allora? Arthur. Può chiamarci entrambi Arthur. Perfetto. Vorrà dire che se mando Arthur da qualche parte, ci andrete entrambi. Se do un lavoro ad Arthur, lo farete in due. Sarà un grosso inconveniente per me non potervi utilizzare per due lavori differenti. Ma avrò il vantaggio di avere due responsabili dello stesso lavoro. Indistintamente. Come poi vi suddividiate il lavoro è differente, però non addossatevi le colpe l'un l'altro. Può esserne certo. Bene. Ora vado a dormire. Vi consiglio di fare lo stesso. Oggi abbiamo sprecato una giornata di lavoro, ma domani dobbiamo alzarci molto presto. Cercate di procurarvi una slitta per arrivare al castello e fatevi trovare pronti in piedi davanti la porta alle 6. Temo ci sia un problema, signore. Valentine? Nessun forestiero può entrare senza permesso al castello. Ancora con questa storia. E cercate di procurarvi questo permesso, no? Telefoniamo subito al portinaio. Sì, pronto. Sono Arthur. Io pure. Lui ci ha chiamato entrambi così. Perché lui è qui ora e vuole il permesso per entrare al castello. Beh, e non dite niente? No. Come sarebbe dire no? Non sarà concesso il permesso. Né domani, né un altro giorno. Ma che? Telefonerò io stesso. Toglietevi. Lasciatevi telefonare. Via! Il numero? Mi avete preso sul serio quando ho detto che avreste fatto entrambi lo stesso lavoro. Sì, pronto, sono l'assistente dell'agrimensore. Sì, lo so perfettamente che siete stato disturbato poco fa, ma non sono quell'assistente. Sono il vecchio, sì. Vengo subito al dunque. Quando potrà venire al castello il mio padrone? Ah. Grazie. Dunque? Tutto a posto, si va al castello. Davvero? Certo che no, idioti! Credo dovrebbe leggere questa. È arrivata mentre era fuori, al villaggio. E che cos'è? La legge e lo scopriremo. Ah. Egregio signore, come sa, lei è assunto ai servizi del signor Conte. Il suo diretto superiore è il sindaco del villaggio, che le darà tutte le informazioni necessarie sul lavoro e sulle modalità di pagamento. A lui dovrà rendere conto. Tuttavia anch'io non la perderò d'occhio. Per quanto sarà possibile cercherò di soddisfarla. Mi preme molto avere dipendenti soddisfatti. La direzione della sezione X? Ma perché non me l'avete consegnata prima? Andava consegnata al momento giusto. Momento. La sua stanza è pronta. Se vuole seguirmi. Certamente. Lei sapeva della lettera? Perché avrei dovuto? La lettera parla anche di lei. Di me? Sì. Sono affari del castello, io sono solo un oste. C'è un post scriptum nel quale si dice che di tanto in tanto lei dovrebbe fare da tramite tra me e il direttore. Ah, si riferisce a quello. Già. Per questo ho creduto che fosse già al corrente del suo contenuto. Ho solo ricevuto l'ordine di consegnargliela e di aspettare che lei l'avesse letta. E se avesse ritenuto necessario comunicare una risposta scritta o orale. Perfetto. Non c'è bisogno di scrivere. Porti al signor direttore... come si chiama? Non sono riuscito a leggere la firma. Clam. Perfetto. Porti al signor Clam i miei ringraziamenti per l'assunzione. Ah, e per la cortesia, che apprezzo particolarmente, non avendo ancora dimostrato il mio valore. Mi atterrò completamente alle sue disposizioni. Al momento non ho particolari desideri. Sarà fatto. Ma la prego di darmi del tutto in avanti. Come crede? Farò lo stesso con lei. Certo, se ritiene. Tu conosci questo Clam citato nella lettera, dico bene? Alloggiava qui, prima del tuo arrivo. Alloggiava? E ora? Dov'è? In un'altra locanda. E perché avrebbe cambiato locanda? Che cos'ha questa che non va più bene? Nulla. Ancora un momento. Poi ti lascerò il tuo lavoro. E dove alloggiava Clam? Ma nella stanza che adesso ho dato a te, naturale. Quindi... ma tu sei un forestiero. E così è dovuto andare in un'altra locanda, riservata esclusivamente ai signori del castello. Con permesso. Vuole mangiare qualcosa? Come? No, dico, vuole mangiare qualcosa. Ah. Grazie. Le porto subito una bella zuppa calda e della birra. Prego. Lei conosce il signor Clam? Benissimo. E perché ride? Beh, lei mi ha chiesto se conosco Clam. Ebbene, io sono la sua amante. Amante? Oh, beh, allora lei è un tipo molto rispettabile per me. E non solo per lei. È già stata al castello? No, ma non le basta che io sia qui a servire? Oh, certo, qui fai il lavoro del proprietario. Proprio così. Io ho iniziato come serva di stalla alla locanda dei signori. Oh, con queste mani delicate. Allora nessuno le ha notate. E anche adesso. Beh, certamente lei avrà i suoi segreti. E non vorrà parlarne con qualcuno che conosce da poco e ancora non ha avuto l'occasione per parlarne di sé. So già tutto quello che la riguarda. Lei è l'agrimensore. Ora da te. Un'ultima domanda, signorina Frida. È una cosa eccezionale e richiede una forza straordinaria passare da semplice serva di stalla a cameriera di una birreria. Ma può essere veramente questo lo scopo finale per una persona così forte? Domanda sciocca, non mi derida, ma i suoi occhi non tradiscono tanto le battaglie passate, quanto parlano piuttosto di quelle future. Non capisco cosa intende dire. Lei deve lasciare Clam e diventare la mia donna. Beh, tu non hai nulla da fare di là. Va a prendere un'altra birra all'agrimensore. Non vedi che hai il boccale vuoto? La zuppa non è di suo gradimento. Eh? Ha ancora tutto nel piatto. A lei piace qui? Intendo il villaggio, il castello. Ecco qua. Mangi. Che quella roba fredda ha tutto un altro sapore. Quella donna mi ripugna. Oh, quando vuole sa anche essere molto affettuosa. Faccio fatica a crederlo. Clam ha grande considerazione di lei. Lui dov'è ora? Mi prende in giro? Non lo sa. Ma è qui, nella locanda. Che cosa? Venga, le faccio vedere. Venga. Ecco, guardi. Quello è Clam. all'oste. L'oste? No, nulla, lasci. Come si accede a questa camera? E che cosa sta facendo ora? Dorme, credo. Dorme. Faccio vedere. Ma... sì, è nella stessa posizione in cui l'ho lasciato. Ma come fa a dormire così? Col gomito sinistro sul tavolo e un sigaro nell'altra mano. Dorme sempre così. È il suo modo per dormire. Sembra quasi incomprensibile. Ma i signori dormono molto. Frida! Oh cielo, l'oste! Dai, lasciala. Sì, la fanno di sotto per farlo. Perché? Faccia come le dico! Dov'è l'aggrimensore? Mi è andato via da tempo. Dove? A prendere una boccata d'aria, forse. È fuori, quindi. Sono stato nel cortile per tutto il tempo, eppure non l'ho visto. Forse si è nascosto. Ho come l'impressione che sarebbe capace di una cosa del genere. Forse si è nascosto sotto il tavolo. No, non c'è! Mi secca non sapere dove se ne sia andato. Non tanto per il signor Clan, ma per il regolamento. Vale tanto per lei quanto per me. Cercherò nel resto della locanda. Buonanotte. E buon riposo. Mio caro, mio dolce amore, vieni. Qua sotto si soffoca. Frida! Oh, non andrò mai più da lui. Resterò sempre con te. Parli di Clan? Ma non dire sciocchezze. Se sapesse, entrambi saremmo perduti. No. Solo io sarei perduta. Ma ti ho conquistato! Guarda un po' quei due. Chi? Gli assistenti. Sembrano assonnati, ma allegri. Assonnati? A quest'ora? È già sera tarda. Sera? Ti sarei addormentato senza accorgertene. Che volete voi due? Ho bisogno di voi di giorno, non di notte. Allevatevi di giorno. Ma tra poco sarà giorno. Sì, ma ora andatevene. Poi insieme andremo dal sindaco. Aspettatevi fuori. Potremmo anche aspettare qui. Lo so, ma non voglio. Che cos'hai contro gli assistenti? Non dobbiamo avere segreti per loro. Ci sono fedeli. Sì, fedeli. Mi spiano continuamente. È sciocco, ma è insopportabile. Credo di capirti. Al mio ritorno dall'incontro col sindaco. Questo è ancora più importante. Mi creda, signore aggrimensore. Là forse si tratta solo di un lavoro. Qui invece di una persona. Temo di non capire. Frida, la mia cara domestica. Ah, sì. Bene. Allora sappia, signora ostessa, che ho intenzione di sposare Frida. Al più presto. Beh, certo, non potrò ricompensarla per quello che ha perduto, né tantomeno per l'amicizia di Clan. Perché io? Perché proprio io devo essere la prescelta? Come? È turbata, povera bambina, per aver incontrato tanta felicità e tanta sventura. Ora però bisogna pensare a certe garanzie. È un uomo onesto, signora aggrimensore. E sicuramente ha riconosciuto quello che perde Frida legandosi a lei. Garanzie? Certo, è naturale. Del resto anch'io prima del matrimonio ho alcune faccende da spiegare. Devo parlare con Clam. Dove lo trovo? Impossibile. Beh, se non riuscirò io, dovrai tentare tu. Non posso, Kappa. Non posso. Clam non parlerà mai con lei. Con nessuno dei due. Come può pensare che voglia parlarle? E perché? Non capisco. Mi ascolti bene. Clam è un signore del castello. Questo di per sé significa che è di un ceto molto elevato. E lei cos'è? Lei non è del castello, lei non è del villaggio. Lei non è niente. Purtroppo, però, anche lei è qualcosa. Un forestiero. Uno di troppo, che procura un mucchio di seccature e non si sa quale intenzioni abbia. Uno che ha sedotto la cara Frida e al quale purtroppo ora bisogna darla in moglie. In fondo non le faccio un rimprovero per tutto questo. Ma ora provi solo a immaginare quello che sta chiedendo. Di parlare con un uomo come Clam. Con dolore ho saputo che Frida le ha permesso di guardare attraverso lo spioncino. Ma mi dica ora come ha potuto sopportare la vista di Clam. No, non è il caso che risponda. Lo so. L'ha sopportata benissimo. Lei non è in condizione di vedere realmente Clam. Egli non parla mai con gente del villaggio, né ci ha mai parlato. Era il grande onore di Frida, in cui sarò fiera per sempre. Lei sola poteva parlarci a suo piacimento e guardare attraverso lo spioncino. Ma Clam non ha mai parlato neanche con lei. Si limitava a chiamarla qualche volta, ma senza l'importanza che gli si vuole attribuire. È possibile che la chiami ancora, ma non sarà più ammessa alla sua presenza dal momento che si è messa con lei, cosa che la mia povera testa proprio non riesce a capire. Ha sicuramente ragione quando dice che agli occhi di Clam sono niente. Ma lei, signora stessa, con la sua profonda conoscenza della vita e degli uomini, e Frida, che fino a ieri è stata la sua amante... Definizione che peraltro ritengo esagerata. Bene, potreste facilmente procurarmi un'occasione per parlarci. Vedo che proprio non riesce a comprendere. Ma mi dica almeno di che cosa vuole parlare con Clam. Di Frida, naturalmente. Sta scherzando? No, mi sembra di chiedere niente di straordinario. Mi rendo conto che potrò sembrarle un po' arrogante, ma nei rapporti tra Clam e Frida nulla può essere cambiato a causa mia. O non esisteva una relazione intima, e allora non è cambiato niente, oppure la relazione esisteva, sì, ma come avrei potuto interferire se sono un nulla agli occhi di Clam? Vede, basta riflettere un po' per rimettere tutto nella giusta prospettiva. Comunque dovremmo lasciare che Frida esprima la sua opinione. Sicuramente Gardena ha ragione quando dice che Clam non vorrà più saperne nulla di me. Ma non certo perché sei arrivato tu. Anzi, io credo che sia opera sua se ci siamo trovati là, sotto quel tavolo. Ha ragione in più per non temere chi hai detto con lui. Sa che mi ricorda mio marito? È proprio stirato e infantile come lui. È qui solo da qualche giorno e vuole già saperne di più di quelli che ci sono nati. Non dico che non sia possibile, a volte, andare contro il regolamento e la tradizione. Non ho mai visto una cosa del genere. Ma di certo non lotterà come vuole lei. Non che io me ne preoccupi, sia chiaro. Magari l'avessi fatto avrei potuto evitare molti problemi. È possibile che Frida abbia ragione. Che tutto sia avvenuto per volere di Clam. Ma io non so nulla di lui. Vorrà dire che lo scopriremo. Vado dal sindaco. Lei è spaventosamente all'oscuro della situazione. Sappia comunque che la tengo in pugno. Perché se la caccio, giovanotto, dovrà trovarsi un tetto da qualche altra parte nel villaggio. No, non se ne vada ancora. Tenga sempre a mente che lei è il pignaro di tutti. E sia prudente. Qui da noi, dove la presenza di Frida mette a riparo da ogni danno, lei può parlare liberamente. Ma altrove, la prego, altrove non lo faccia. Non capisco questa sua premura. Se come dice per me è impossibile parlare con Clam, allora vuol dire che non ci riuscirò. Che lei mi preghi o no. Ma se invece fosse possibile, perché non tentare? Cosa teme dunque? Agli ignoranti tutto sembra possibile. Non avrà paura per Clam? Dunque lei è il nostro agrimensore. Si sieda, prego. Cosa posso fare per lei? Si tratta di una lettera che ho ricevuto da un certo Clam. Posso leggergliela se vuole? Come lei immaginerà, mio marito è già al corrente dell'intera faccenda. Se non sono ancora intervenuto, lo si deve in primo luogo alla mia malattia. E poi al fatto che lei non era mai venuto, pensavo avesse già abbandonato la cosa. Ma dal momento che invece è qui... Sono costretto a dirle tutta la spiacevole verità. Lei è stato assunto da noi in qualità di agrimensore, ma da noi non c'è bisogno di agrimensori, avvengono raramente scambi di proprietà e le piccole controversie ai confini ce le regoliamo da soli. Questo mi meraviglia molto e manda all'aria i miei calcoli. Posso sperare in un malinteso? E purtroppo no, è così come ne dici. Ma com'è possibile? Non ho certo fatto questo viaggio interminabile per essere rispedito a casa. Questa è un'altra faccenda che non devo risolvere io. Posso comunque spiegarle come sia stato possibile il malinteso. In un'amministrazione così grande come quella del Conte, a volte può succedere che una sezione ordini una cosa e una seconda ne ordini un'altra. L'una all'insaputa dell'altra. Così a volte può insorgere una certa confusione. Ben inteso, sempre piccole cose, come il suo caso, ad esempio. Ma spesso anche le piccole cose sono abbastanza imbarazzanti. Tornando a lei, le racconterò apertamente cos'è avvenuto. Molto tempo fa ricevemmo, non so più da quale sezione, un decreto in cui si comunicava nel tono categorico abituale per i signori che si doveva assumere un agrimensore. Naturalmente quel decreto non poteva riguardare lei perché risale a molti anni fa. Dovremmo ancora averlo da qualche parte, sommerso tra le carte raccolte nel granaio, un documento sul quale la parola agrimensore è sottolineata in blu. Dovrei chiedere a mia moglie di cercarmelo. Mizzi, ti dispiacerebbe andare a dare un'occhiata? Potrebbe essere sotto sotto! Potrei aiutare sua moglie nelle ricerche? Non ho segreti per lei. Non posso lasciarle cercare da sola il documento. Ma riuscirà sua moglie a trovarlo da sola? Pizzi, cerca un po' più in fretta! Posso comunque raccontarle la storia anche senza i documenti. A quel decreto di cui le dicevo rispondemmo, ringraziandolo, che non avevamo bisogno di agrimensori. La risposta però sembra non essere arrivata alla sezione competente, diciamo sezione A, ma piuttosto ad un altro reparto, B. Ma sfortunatamente neppure il reparto B ottenne una nostra comunicazione completa. Arrivò solo una busta su cui era comunicato che i documenti relativi alla nomina dell'agrimensore erano purtroppo andati perduti. Nel frattempo il reparto A attendeva una nostra risposta e come accade in un ufficio dove tutto funziona alla perfezione, il relatore era convinto che noi avremmo risposto e che lui avrebbe proceduto alla nomina. Di conseguenza dimenticò di prenderne atto e l'intera faccenda finì per essere dimenticata. Nel reparto B il plico arrivò vuoto e ci fu rispedito indietro perché lo completassimo, ma dal primo scritto del reparto erano già trascorsi dei mesi, se non degli anni. Quando dunque ricevemmo la nota, ricordavamo la questione molto vagamente, eravamo solo in due a fare il lavoro, Mizzi e io. Quindi potevamo solo rispondere vagamente perché non sapevamo nulla della nomina. E che non ci serviva un agrimensore. Ma non la noia questa storia? No, anzi... mi diverte. Non gliela sto raccontando per divertirla. Mi diverte perché mi dà l'idea di come un ridicolo imbroglio in certe circostanze possa decidere della vita di un individuo. Lei non può ancora avere alcuna idea. Ora le racconto il resto. Non soddisfatti della nostra risposta che sembrò addirittura sospetta, iniziò una finta corrispondenza nella quale mi si chiedeva il perché improvvisamente mi fosse venuto in mente che non bisognava assumere un agrimensore. Io risposi allora che la prima iniziativa era stata dell'ufficio. Naturalmente avevamo dimenticato da tempo che si trattava di un altro reparto. La replica fu che era molto strano che la notizia della nomina fosse venuta fuori solo ora. Io, come lei immaginerà, risposi che era così perché me l'ero ricordato solo ora. La comunicazione si è fatta talmente finta che mi sono bloccato, perché non mi azzardavo né a sostenere né a credere che il reparto fosse incappato in un errore! Uno dei principi del lavoro dell'amministrazione è che non venga mai annoverata la possibilità di errori. Signor sindaco, mi permetta di interromperla con una domanda. Ma non esiste comunque un'autorità di controllo! Solo un forestiero poteva fare una domanda simile. Tutto è servizio di controllo. Ma le ripeto che comunque non ne ha ammesso alcun errore. E se per una volta cade come nel suo caso, che può dire alla fine che sia un errore? Questa è proprio nuova. Per me è cosa vecchia. Immagino, ma preferisco non addentrarmi in considerazioni simili. Credo solo che bisognerebbe distinguere due cose. Primo, quello che succede nei reparti, che può essere interpretato in un modo o nell'altro. E secondo, la mia persona reale, che è al di fuori dei vostri uffici e da questi è minacciata di un danno. Ora, mentre per il primo vale quello che mi raccontate voi con una straordinaria competenza, beh, adesso vorrei sentire qualcosa riguardo me. Vengo subito al dunque. Non senza una piccola premessa. L'ufficio che ha in carico la sua pratica è sommerso dal lavoro, come lei potrà immaginare. Personalmente non l'ho mai visto con i miei occhi, ma mi è stato descritto. Ha le pareti nascoste da pile di incartamenti che riguardano solo gli affari in corso. Poiché le carte vengono continuamente inserite, tolte dai plichi, spesso avvengono numerosi crolli. Capirà da sé che non può godere della massima priorità. Quindi lei definirebbe il mio caso trascurabile? Eppure se ne sono dovuti occupare molti funzionari. Se all'inizio era una cosa sì di poco conto, beh, sembrerebbe che lo zelo dei vostri uffici l'abbia trasformato in un caso della massima importanza. Io certamente non ho l'ambizione di far crollare pile di documenti sul mio conto, quanto piuttosto di lavorare a un tavolo da disegno, come modesto agrimensore. La quantità di lavoro non determina l'importanza del caso. Il suo è e resta dei più insignificanti. Inoltre lei non sa niente del vero lavoro che il suo caso ha causato. E ora le parlo di una caratteristica del nostro apparato amministrativo. Quando una questione va avanti per molto tempo, può succedere anche prima che le delibere siano già concluse, che improvvisamente sputi fuori una soluzione che liquidi la faccenda in modo arbitrario. Naturalmente non si tratta affatto di un miracolo. Ma in ogni caso nessuno arriva mai a scoprire l'impiegato che abbia risolto il caso e per quali motivi. Questa potrebbe essere però una delle cause per le quali le è stata comunque inviata la nomina da agrimensore. Che, come lei avrà ben capito, sono intenzionato a respingere. Capisco. Saprò difendermi bene. E come vuol fare? Non posso rivelarglielo, signor sindaco. Sappia soltanto che io sono già stato nominato agrimensore. Ecco qui la lettera di Clam. La lettera di Clam è rispettabile e preziosa per la firma che porta, ma non è proprio uno scritto ufficiale, quanto una lettera privata. Già l'intestazione basta dimostrarlo. Egregio signore! E poi parla solo genericamente di servizi da prestare al ponte. Che uno straniero come lei non lo abbia capito, non mi meraviglia. Quindi, secondo lei, quella lettera non sarebbe altro che una firma su un foglio di carta vuoto? Non si rende conto così di svilire il nome di Clam? Non intendo sottovalutare l'importanza della lettera, al contrario, è molto più importante di un documento ufficiale, ma non ha il significato che lei mi attribuisce. Conosce Schwarzer? No. Tu sei Mizzi? Neanche tu? No, non lo conoscerò. Ah, curioso. Vi somigliate molto. È il figlio di un sottoportinaio. Mio caro agrimensore, mio marito non può conoscere tutti i figli di tutti i sottoportinai. Con questo Schwarzer ho avuto una penosa scenata il giorno del mio arrivo. Ha interpellato telefonicamente un sottoportinaio al castello che ha confermato la mia nomina. Come lo spiega questo? Lei non ha avuto ancora alcun rapporto con la nostra amministrazione. I suoi sono solo contatti apparenti. Per quanto riguarda il telefono, lei vede che non ne ho, eppure ho abbastanza a che fare con le autorità. Nelle locande o cose del genere può tornare utile, come una pianola, ma nulla di più. Nel castello il telefono funziona in modo eccellente. Mi dicono venga usato ininterrottamente, tanto che noi sentiamo un continuo brusio, come un canto. Ma quel brusio e quel canto sono l'unica cosa precisa e affidabile che ci trasmettono i nostri telefoni. Tutto il resto è un'illusione. Non esiste un collegamento sicuro con il castello e nemmeno una centrale che trasmette le chiamate. Se si chiama qualcuno da qui, al castello suonerebbero tutti gli apparecchi, motivo per cui la suoneria è tolta da ognuno di essi. Capita però ogni tanto che qualche funzionario spossato dalla stanchezza sente il bisogno irrefrenabile di riattivare le suonerie, soprattutto la sera o la notte. Otteniamo così risposte di ogni genere, che altro non sono che uno scherzo. Non avevo considerato la cosa da questo punto di vista. Anche se non ho mai avuto molta fiducia nei colloqui telefonici. Sbagliando! Non hanno un'importanza ufficiale, questo sì, come nel caso della lettera di Clam, ma hanno una loro importanza privata. In segno di amicizia. Oh, beh. Allora tutto sommato al castello ho una quantità di grandi amici. Anche se l'unico risultato a cui siamo giunti è che tutto è oscuro e insolubile. Tranne la mia cacciata. Ma chi oserebbe cacciarla? Nessuna intenzione di trattenerla qui, ma questo non vuol dire che qualcuno voglia cacciarla. Ora è lei, sindaco, che vede le cose troppo semplici. Potrei farle un elenco delle ragioni che mi trattengono qui. I sacrifici fatti per lasciare la mia casa, il lungo viaggio, le speranze che riponevo in questa nomina, la mia totale mancanza di mezzi e ultima, non per importanza, la mia fidanzata. Che è di qui. Ah, Frida, ho saputo. Sarà mia premura riferire le sue controdeduzioni al castello. Se si dovesse addivenire a una decisione. La faremo chiamare. Non voglio regali al castello, ma che sia fatta giustizia. Per conto di tua moglie? Sei così succube di lei? No, ma non te lo chiedo per conto suo. Anche se lei è molto agitata e turbata proprio a causa tua, se ne sta di là a lamentarsi di continuo. Vuoi che vada da lei? No, è meglio se la faccio venire qui. Tu accomodati. Offre la casa. Finalmente è tornato. Non avrebbe dovuto farmi aspettare così a lungo. Ma lei non mi ha fatto chiamare. Si sieda. Beh, tu cosa fai lì in piedi? Vuoi che me ne vada? Si capisce. Perché dovresti rimanere? È stata lei a far chiedere a suo marito se avessi trovato un altro alloggio. Io cosa? No, al contrario. Sono felice che lei rimanga. E cosa le avrebbe fatto cambiare opinione su di me? Non ho affatto cambiato opinione. Voglio essere sincera con lei. Guardi questa fotografia. Sembra molto vecchia. È diventata così portandola sempre addosso negli anni. Ma mi dica, che cosa vede? Sono felice di sentire qualcosa di questa foto. Un uomo giovane. E che fa? Sembra sdraiato. Si stira e sbadiglia? Guardi meglio. Non è sdraiato. È sospeso in aria. Sta saltando. È così che si allenano i messaggeri ufficiali. Riesce anche a distinguere il viso. Vedo molto poco. Sembra affaticato. Chi non l'ha conosciuto personalmente non riesce a distinguere oltre. Non lo dimenticherò mai. Dunque, chi è? È una foto di Clam. Anche questo fazzoletto e questa cuffietta lo sono. I tre ricordi che ho di lui. Non sono giovane come Frida, né ambiziosa come lei. Ho saputo adattarmi alla vita. Ma le devo confessare che senza queste tre cose io non avrei potuto resistere a lungo qui. Frida, che ha avuto una relazione così lunga con Clam, non possiede niente. Mentre io che ci sono stata solo tre volte, non lo so perché, dopo non mi ha più chiamata. Mi sono portata via questi tre ricordi. Clam non regala nulla spontaneamente. Non mi aveva più fatta chiamare, quindi significava che mi aveva dimenticato subito. Quanto tempo è passato da allora? Mi sembra un'eternità, chi può dirlo? Così a lungo può durare la fedeltà a Clan? Comincio a preoccuparmi se penso alle mie nozze future con Frida. Mio marito non mi ha mai posto simili domande. Sai, io non so chi sia più infelice, io allora o Frida adesso. Forse Frida, che ha lasciato Clam di sua volontà, sebbene non sembri rendersene conto. E lei come ha conosciuto suo marito e ottenuto questa locanda? È una storia semplice. È stato dopo il mio ultimo incontro con Clam. Io ero molto infelice. Non riuscivo a lavorare, me ne stavo tutto il giorno nel piccolo giardino davanti casa e Hans, mio marito, mi vedeva spesso lì e qualche volta si sedeva accanto a me. Un giorno l'oste d'allora passò di lì, ci vide vicini e di punto in bianco ci offrì la locanda in gestione. Pensando allora che il nuovo lavoro mi avrebbe aiutata a dimenticare la mia condizione infelice, decisi di sposare Hans. Questa è la storia. Dunque, se non fosse stato per Clam, lei non sarebbe stata così indifferente alla vita. E non avrebbe sposato Hans. Lei è un folle se pensa che Clam c'entri fino a questo punto nella mia storia con Hans. Non direttamente, forse. Che cosa vuole veramente lei da Clam? Lei prima ha detto che Clam dimentica subito. Oh, mi meraviglio che possa credere a una cosa così sciocca. Lo abbiamo imparato tutte per esperienza. Voglio vederlo da vicino. Poi sentire la sua voce e avere un giudizio sul matrimonio tra me e Frida. Finora non ho mai parlato con un vero funzionario. Mi pare che la cosa sia difficile da ottenere più di quanto credessi. Ma ora... ora è come privato che ho il dovere di parlargli. Sì. No, e questo sarà più facile da ottenere, no? Posso parlargli dappertutto, non necessariamente al castello. Due piccioni con una fava, come si suol dire. Bene, se attraverso le mie conoscenze ottengo che la richiesta di colloquio venga trasmessa a Clam, mi promette di non fare nulla di propria iniziativa? Non posso farlo, specie dopo l'esito del colloquio col sindaco. Quello che dice non ha alcun senso. Il sindaco è una persona di nessun conto, non l'ha notato? Veramente? Senza sua moglie che fa tutto, non resterebbe in carica un giorno di più. Mizzi? C'era anche lei, no? Sì. E ha espresso la sua opinione? No. Ho creduto che non ne fosse capace. Già. Lei qui vede ogni cosa al rovescio. In ogni caso parlerò io con la moglie. Non c'è bisogno. Ho già preso la mia decisione. E la porterò fino in fondo. Anche nel caso di una risposta negativa. Faccia molta attenzione. In ogni caso, la sua condotta è ribellione. Il sindaco mi ha riferito del vostro colloquio. Sei stato molto scortese con lui. Un uomo anziano, rispettabile, pieno di merito e di esperienza. Te l'ha detto lui questo? No, è scritto nel verbale che mi ha chiesto di stilare dopo il vostro colloquio. Verbale? stilato in mia assenza da qualcuno che non era presente al colloquio? Era forse un incontro ufficiale? Ufficioso! E lo è anche il verbale. È stato fatto solo perché qui da noi tutto deve essere regolare. Immagino. Comincio ad avere un'idea piuttosto chiara del vostro concetto di regolarità. E sia pure. Se è tutto quello che avevi da dirvi, buonanotte. In verità c'è dell'altro. Un'altra prova di bontà dell'amministrazione. Bontà? Il signor sindaco teme che se la decisione sul tuo caso dovesse richiedere troppo tempo, tu possa compiere di testa tua qualche atto avventato. Certo, egli non può affrettare la decisione che spetta comunque all'autorità del conte, ma intende agevolarti, offrendoti provvisoriamente il posto di bidello nella scuola. Mi prendi in giro? È un grande atto di generosità, nonostante al momento non sia necessario un bidello. Oh, non mi dire. Comunque stai sereno, non ho intenzione di accettare il posto. Eccellente, quindi rifiuti senza riserve. Aspetta un momento, papà. Ti chiedo solo di avere un po' di pazienza prima di prendere una decisione del genere. Lo stesso è furiosa per essersi abbandonata a fare con te delle confessioni. Ma che c'è? Ma ancora di più per esserti rifiutato il suo aiuto riguardo l'incontro con Clam. Vuole che lasciamo la locanda oggi stesso. Vuole naturalmente che io resti, ma come potrei? Ti seguirei ovunque. Ma la nostra situazione è comunque molto grave. Perciò, al posto tuo, accoglierei con grande gioia la proposta del sindaco. Sarebbe solo una situazione passeggera. È una brutta faccenda. Però se tu rimanessi, si potrebbe temporeggiare un po', no? E dargli una risposta vaga. Se vuoi resterò qui da sola. Anche se per me sarebbe molto penoso. Ma se entro oggi non ricevi qualcosa dal castello, al villaggio non troverai alloggio neanche per te solo. Se accettiamo il posto non abbiamo nulla da perdere. Perderemmo molto invece se rifiutassimo. Allora non mi resta che accettare. Bene, riferirò. Così un funzionario addetto alla faccenda potrà subito elencarti i tuoi doveri di servizio. Non prima di avermi elencato i benefici del nuovo impiego. Benefici? Il contratto, lo stipendio. Io e Frida dobbiamo sposarci. Dovremmo fare anche al comune una domanda per un anticipo sulla paga. La concessione del posto è già una compiacenza verso di te. Non bisogna spingersi troppo oltre con la cortesia. Semmai la compiacenza la farei io a voi accettando. Quando qualcuno è costretto ad assumere un altro, è il secondo ad essere compiacente. Qui nessuno è costretto a fare niente. C'è bisogno di un bidello tanto quanto di un aggrimensore. È bene che inizi a rinunciare alle tue fantasie. Fatti aiutare da quei due enti dei miei assistenti col trasloco. E tu? Che intenzioni hai? Devo cercare Calamba. Non lo troverai. Sta per partire. La slitta è pronta, ti aspetta nel cortile. Cosa? E non mi trattieni più. Troverai così tanti ostacoli. Che cosa vuoi che siano le mie parole? Hai intenzione di aspettare ancora molto? Ti prenderai un accidente con tutto quel freddo. Tieni, calma. Bevi! Non lo vedrai in ogni caso, che resti o che vada. Preferisco non vederlo aspettando. Fa come vuoi. Dunque Clam è già partito. Beh, già che hai smesso di fare la guardia, hai potuto ripartire. Non parlerà mai con qualcuno a cui non vuole parlare. Per quanti sforzi questo faccia, insistendo fastidiosamente. Io mi guarderei bene dal dargli altri consigli, avendo già rifiutato in modo scortese quelli che finora gli ho dato. Sappia comunque che ho già informato chi di dovere della sua condotta e delle sue intenzioni, e per evitare, una volta per tutte, di doverla alloggiare da me. Le verranno fatte delle domande e verrà stilato un verbale. Un altro? E Club lo leggerà? Perché potrebbe essere un modo per arrivare comunque a lui, no? Lei mi sfinisce con questa storia! E lei con le sue minacce! Buonanotte. Non oserei andartene! Beh, se non altro, prima forse dovresti leggere questa. E che cos'è? L'ennesima diffida dal castello. È di Clam. L'ha lasciata prima di partire. Una lettera di Clam. Che me. Al signor agrimensore Locanda del Ponte. Mi compiaccio per i lavori di agrimensura che ha svolto sinora. Anche quanto fatto dai suoi assistenti è da lodare. Lei sa bene come spronarli a dovere. Non venga meno nel suo zelo e porti a buon fine i lavori. Se per qualche motivo dovesse interrompersi ne sarei amareggiato. Per il resto si tranquillizzi, la questione dello stipendio si risolverà più presto. Non la perdo di vista. Deve esserci un malinteso. Io non svolgo nessun lavoro di agrimensura. Ma che diavolo succede in questo villaggio? Riferirò le tue osservazioni. Sì, riferirai, come? Devo crederti messaggero così fidato? Più di quanto immagini. Che vuol dire? Tu puoi accedere al castello? Farò del mio meglio. Oh, caro il mio oste. Allora, cerca di farmi avere un colloquio col direttore. Eh? Solo un colloquio personale con lui potrebbe risolvere la faccenda. Nulla di scritto, però. Devi riferire oralmente, d'accordo? Non voglio scrivere un'altra lettera che percorrerebbe di nuovo l'interminabile trafila burocratica. Ti recherai personalmente al castello, certamente. Oh. Buonanotte. Buonanotte. Sei in collera con me? Frida. Rispondi. Perché me lo chiedi? Non sono degna di vivere accanto a te. Se io non ci fossi, potresti ottenere tutto quello che desideri. Ti adoperi per ottenere un colloquio con Clam per me e io non faccio altro che farti soffrire. Non dire sciocchezze. Anzi, tu hai fatto tutto per me. Prima di conoscerti ero completamente smarrito. Dobbiamo andarcene da qui. Che vita possiamo aspettarci restando? Non posso andarmene ora. E poi questo è il tuo paese. Non ce la farò a sopportare questa vita. Ti manca soltanto Clam, forse. E questo pensiero ti sconforta. Io sentire la sua mancanza. Ma è una persecuzione. Dappertutto trovo Clam. Voglio andarmene proprio per sfuggirlo. Mi manchi tu, non Clam. È per te che voglio andarmene, perché non posso saziarmi di te qui, dove tutti mi insidiano. Vorrei che mi strappassero questa bella taschera, che il mio corpo avvizzisse pur di stare in pace con te. Ma di cosa stai parlando? Chi ti insidia? Clam è ancora in rapporti con te. Parla! Non so nulla di lui. Parlo degli altri. Degli assistenti, per esempio. Ma che c'entrano loro? Non ti sei accorto di nulla? No. Certo, sono invadenti inopportuni. Ti ricordi come ci spiavano la prima volta che ci siamo incontrati sotto quel tavolo? Non lo hai capito? Non saremo mai felici qui, circondati dagli inviati di Clam. Inviati di Clam? I miei assistenti? Non sappiamo chi siano. Li chiamo così nei miei pensieri. Per gioco. Ma forse lo sono davvero. I loro occhi sembrano così innocenti, eppure mi ricordano quelli di Clam. Sì, è così. È il suo sguardo che mi spia attraverso loro. se per te sono un problema, allora li licenzierò. Io stesso non ho grande stima di quei due. Ma dubito comunque che possano avere un rapporto privilegiato con Clam. Ho ricevuto una sua lettera. E deduco che gli siano del tutto indifferenti da come ne parla. Se così non fosse, avrebbe potuto ottenere da loro informazioni più chiare di quelle che scrive. Che tu veda il loro Clam non dimostra niente. Sei influenzata dallo stesso. Vedi Clam dappertutto. Sei ancora la sua amante. E ben lontana dall'essere mia moglie. Forse hai ragione. Ma certe cose che Gardena dice sono verità. Di cosa stai parlando? Fin dall'inizio lo stesso ha cercato di farmi dubitare di te. Non ho mai affermato che tu mentissi. Al contrario, diceva che eri sincero come un bambino. Ma che la tua natura è così diversa dalla nostra che anche quando parli chiaramente noi stentiamo a crederti. Cerca di ascoltarlo bene. Me l'ha ripetuto spesso. Solo perché mi sono trovata per caso sulla tua strada e non ti sono dispiaciuta. E perché tu sei convinto che una cameriera sia la vittima predestinata di ogni cliente che allunghi la mano ti sei messo con me. Non ti sarebbe stato possibile arrivare a Clam se non tramite me. Prima non avevi speranze e ora sei convinto di possedere un mezzo per arrivare davvero a lui e addirittura in una posizione di superiorità perché credi di avere conquistato con me un amante di Clam e di avere un ostaggio che può essere riscattato solo ad altissimo prezzo. Non hai alcun affetto per me. Anzi, non hai mai tempo. Mi abbandoni ai tuoi assistenti. Non conosci gelosia. Sei pronto anche a recitare la commedia. Se sarà necessario, fingerai di amarmi. Ma quando ti accorgerai di esserti illuso in tutto, nelle tue supposizioni, nelle tue speranze, allora inizierà l'inferno. Per me, perché sarò l'unica cosa che ti rimane, ma ormai senza alcun valore. E mi tratterai di conseguenza. Non so fino a che punto queste siano parole dello stessa, o tue. Sono solo parole dello stessa. L'ho ascoltata perché la rispetto. Ma è la prima volta in vita mia che respingo il suo pensiero. Ma quel che ha detto mi è sembrato così miserabile, lontano da ciò che esiste tra noi due. Ma poi in realtà sentirti parlare con l'oste a quel modo, prima, ho visto come cercavi di ottenere una non facile fiducia per raggiungere indisturbato lo scopo che mi era sempre più chiaro. Era come se lo stesso mi sedesse accanto e mi spiegasse ogni cosa. E io con tutte le forze cercassi di spingerla via, ma inutilmente. Eppure non era me che cercavi di ingannare in quel momento. Quello che dici, per certi versi, è giusto, sì. Ma sono opinioni dello stesso, anche quando credi che siano tue. È difficile riuscirti a capire, Kappa. Resta il fatto che mi tieni nascoste molte cose. Se non ti fidi di me, come posso non essere diffidente? E allora sono in balia dello stesso. Ma cosa ti starei nascondendo? Che voglio arrivare al castello, lo sai. Che non puoi essermi d'alcun aiuto. E perciò cerco di arrivarci con le mie sole forze anche. Che finora non ci sono riuscito, lo vedi tu stessa. E l'oste? Credi che lui sia un buon messaggero? Finora non me ne ha dato l'occasione, è vero. Ma ad oggi è l'unica speranza che ho di arrivare al castello. Se lo stessa conosce molto bene soltanto gli ostacoli per arrivare a Clam, l'oste forse conoscerà la strada che conduce a lui. Fidati. Ma come posso fidarmi di te? Se il tuo unico interesse è arrivare al castello. Thank you. sono i colloqui e gli interrogatori con i funzionari. Forestieri, colloqui. Se quelli devono proprio venire, che almeno entri non alla volta. La cosa migliore sarebbe che i colloqui si tengano fuori dalla locanda, ma i funzionari non sono d'accordo. Ma che significa? I signori si rifiutano di lasciare il castello e andare al villaggio per questioni di ufficio. Come pretendere da loro di doversi armare di tutte le carte e andare da qualche parte per perdere così del tempo prezioso? I loro funzionari, invece, preferiscono sbrigare le pratiche nelle loro stanze, qui alla locanda. Possibilmente durante il pasto. Ah, oppure a letto, la sera, prima di prendere sonno. Oppure la mattina, quando sono ancora troppo stanchi per alzarsi, preferiscono continuare ancora un po' a letto. Hai portato la mia richiesta? Certo. E che cosa ti ha detto? Non ho detto di essere riuscito a parlarci. Ci ho provato in tutti i modi, ma non è stato possibile. Però ci sono riuscito. Ma fare cosa? Mentre ero lì, in attesa di essere ricevuto, da chi non lo so bene, perché le attese degli uffici dei signori possono durare anche anni, ho visto un uomo venire lentamente verso di me. Allora ho pensato potesse essere una buona occasione. Infatti così è stato. E quale successo avresti te? Quel signore era Erlanger. Non lo conosci? È uno dei primi segretari di Clown. Mi ha visto, mi ha riconosciuto subito. Capiti al momento giusto, ha detto. Dio all'agrimensore di venirmi a trovare domani alla locanda. Un paio di colloqui, poi ripartirò domattina verso le 5. Ci tengo molto a parlare con lui. Signora, dov'è? Sta ricevendo. Dov'è? No, devi aspettare qui finché non ti chiama qualcuno. Ora devi scusarmi, molto da fare. Gardena, Frida. Sono io. Ma non mi riconosci? Sono molto impegnata, anche se la mia attuale occupazione non è certo degna di me. Ma che motivo avevi di tornare a lavorare qui? Ora, alla vigilia delle nozze. E poi c'è la mia nomina di bidello, no? Non ci sarà alcun matrimonio. E perché? Ma che cosa è cambiato? Ho licenziato anche i miei assistenti. E perché ti trascuro? Sicuramente avrai già trovato qualcun altro che ti può essere più utile di me a raggiungere i tuoi scopi. Ma non hai motivo di avere dei sospetti. Inoltre, finalmente sono riuscita ad ottenere un colloquio. Per discutere della mia situazione, immagino. Vedrai, le cose si sistemeranno. Ogni storia ha le sue difficoltà. Figuriamoci la nostra. Ci siamo incontrati provenendo da due mondi completamente diversi. E da quando ci siamo conosciuti, le vite di ognuno si sono trasformate. Se quella notte fossimo andati via insieme, ora saremo insieme per sempre. Frida! Signora Grimensore, scusi il disturbo. Credo di avere la febbre, ho bisogno di una tazza di tè che mi faccia sudare. Oh, caro, ma certo, vieni qui. Su, appoggiati da me. Sto male. Com'è così taciturno, signora Grimensore? Sono solo stanco. Novità sul mio colloquio? Beh, c'è molto lavoro. Tanti casi urgenti, come lei sa, il suo. È un caso rilevante, lo so. Non fate altro che ripeterlo tutti. Deve essere umiliante per lei. Ne soffre? Sì, ne soffro. No, ma non deve lasciarsi intimorire dalle delusioni. Qui certe cose sembrano regolate in modo da intimorire. E un nuovo arrivato, gli ostacoli appaiono addirittura insormontabili. A volte mi sembra di essere come in un sogno. Ripenso al mio primo giorno qui. Quando tentai di raggiungere il castello da solo, si ricorda? Le dissi di quella donna col neonato al seno, degli uomini nella dinozza, del fumo nella stanza. Lei disse che era una storia affascinante, e io le dissi che non era una storia, era accaduto davvero. Ma adesso non ne sono più così convinto. Chi può dire cosa sia veramente la realtà? Prendiamo questo villaggio, per esempio, e le vostre regole. No? Mi sembra tutto così assurdo. e invece per voi tutto è limpido, chiaro. Ma cosa chiedo in fondo? Di arrivare al castello. Ma perché devo arrivare al castello? Anche ora che Frida mi ha abbandonato. Credevo mi avesse assunto. Ma dal momento che sembra esserci un malinteso, che senso ha per me tutto questo? Per che cosa sto lottando? Sono stanco. Si sdraia un po' qui. Forse ha solo bisogno di dormire un po'. La sveglierò io, appena Erlanger potrà riceverla. Dove ho sbagliato? Me lo dica. Per favore. Cerchi di dormire. Ma una volta non ci davamo del tuo. Una volta. Che fa? Sta dormendo? E chi lo sa? Bisognerà dirglielo prima o poi. Se non l'ha capito finora, che altro possiamo fare? Non dovevi illuderlo. Sapevi a quale rischio stava andando incontro. Deve essere sempre colpa mia, non è vero? Io ti avevo messo in guardia, però. E io ho fatto il meglio che potevo per essere convincente. Deve capirlo da solo. Com'è stato per quelli che sono venuti prima di lui. Non arriverà mai al castello. Anche perché ormai sembra aver perso completamente le forze. La fatica succede a chi lotta invano. Prima o poi si arrenderà. E se non dovesse arrendersi? Tutti prima o poi si arrendono. Tutti. È l'unica soluzione. Avremmo dovuto dirglielo subito. Avrebbe lottato lo stesso. È nella sua natura. Chiunque l'avrebbe fatto. Ho pensato che lui fosse diverso. L'ho sperato. A che scopo? Nessuno può parlare con Clam. È il regolamento. Non si muove più. Credete che sia... Sarebbe già un bel passo avanti. Dopotutto la vita è un sogno nel quale ci si sveglia. Morendo. Spettacolo Il Castello di Cappa di Massimo Roberto Beato, dal romanzo Il Castello di Franz Kafka, regia Jacopo Bezzi, con Massimo Roberto Beato, Nicoletta La Terra, Lorenzo Venturini, Brunella De Feudis, Uco Benini, musiche Angela Bruni. Con Nicola Zavagli dei Teatri d'Imbarco per parlare del progetto Two Moons, le nostre voci, che parte lunedì 15 giugno 2020 in occasione della giornata internazionale contro gli abusi sugli anziani. Nicola, ben trovato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Onda Rossa. Presentaci quest'idea. L'idea è un progetto europeo che parte da una bella, bellissima indagine sul campo attraverso delle interviste in quattro paesi d'Europa agli anziani per cercare di difendere quello che è il diritto umano universale, cioè i diritti umani. Visto la frequenza denuncia di abusi, maltrattamenti, mancanza proprio di rispetto nei loro confronti, ci è sembrato giusto partire con i nostri partner europei nel raccogliere quelle che sono alcune storie di persone anziane. L'abbiamo fatto in collaborazione con anziani non solo di Carpi, e gli altri partner europei sono la Gaiety School of Art di Dublino, che fa parte del Teatro Nazionale d'Irlanda, e poi c'è la Finlandia con Helsinki e Bucarest con la Romania, per avere proprio un'idea di quella che è la condizione degli anziani proprio a livello europeo. Com'era nato tutto? Dal desiderio di indagare un pochino nella logica della vecchiaia, che è un tema che ci riguarda tutti, per i nostri padri, per le nostre madri, per noi domani, perché chiaramente ne senti la forza, l'urgenza anche di dargli voce, perché è come se la dignità umana si spengesse nel momento in cui perdi le forze, perdi la memoria o ti si indebolisce e quindi non riesci più a trovare voce, per cui era dare voce attraverso lo strumento del teatro a quelle che sono le persone anziane. Ecco, questo è nato da un'esigenza interiore che poi riguarda un po' tutti, no? Perché tutti abbiamo padri, madri che vediamo invecchiare, che vediamo spengersi, per cui nasce da questa sensibilità qui. Come sempre tutte le idee della compagnia Teatri d'Imbarco nascono da Beatrice Visibelli e dal sottoscritto e dal nostro organizzatore Cristian Palmi, e abbiamo trovato una bellissima realtà che è questa di anziani non solo, di Carpi, di Salvatore Miglianta e Licia Boccaletti, che ci hanno aperto la possibilità poi di portarlo e di trovare dei finanziamenti a livello europeo e di trovare questi splendidi partner irlandesi, per cui anche avere una visione di questo tema più ampia, più europea appunto. L'avete centrato sulla condizione di fragilità della terza età? Sì, dovendo e volendo parlare di diritti umani, abbiamo voluto cercare di raccogliere quelle storie, a volte più drammatiche, a volte no, quelle storie dove si vede appunto la mancanza di rispetto, il maltrattamento, delle volte psicologico nei confronti dell'anziano, oppure anche proprio fisico, insomma, per cui anche quella che può essere, sì, la vulnerabilità della condizione dell'anziano, ecco, che ci deve comunque, alla luce di questa parola importantissima, che è i diritti umani, gli human rights, perché è come dire, è diverso dal diritto civile o dal diritto legale, perché ti porta a capire che siamo tutti noi a doverli riconoscerli, a doverli rispettare, quindi è come dire, la sensibilità, la consapevolezza deve partire da tutti noi, anziani e non, perché il diritto umano si fonda sul rispetto che tutti noi abbiamo, siamo noi a doverli far rispettare e il dovere è il dovere di fare qualcosa per loro. Come è strutturata ogni singola puntata? Da queste interviste raccolte sul campo, appunto in vari paesi d'Europa, abbiamo elaborato una drammaturgia, io e Salvatore Miglianta, una drammaturgia che si sviluppasse in 5 e a volte anche 6 monologhi che potessero essere emblematici per ogni paese e anche per le diversità degli abusi e del maltrattamento e della mancanza di rispetto dei diritti umani, per cui ho elaborato insieme a Salvatore Miglianta questa drammaturgia dove la competenza di Salvatore in quanto avvocato si è anche poi aperta allo sviluppo di un personaggio, di una giovane attivista dei diritti umani in difesa dei diritti degli anziani appunto, per cui abbiamo i monologhi, uno per ogni nazione, rappresentativo anche di quelle che è le problematiche più importanti per ogni singolo paese d'Europa, e la figura di questa giovane attivista, una giovane attrice che si chiama Matilde Zavagli, che ha, diciamo, come se avesse la possibilità di illustrare la bellezza e l'importanza dei singoli diritti umani violati. Ecco. Quali sono le due lune del titolo? È un proverbio Sioux che ti fa capire che mettendoti nei panni, nelle scarpe, per due lune nei confronti di una persona, tu ne puoi capire empaticamente quello che è il suo problema, il suo dolore e la sua vita. Ecco, per cui mettersi nei panni di una persona anziana, nelle scarpe di una persona anziana, e provare a camminare per due lune, da una luna più piena a un'altra luna piena, per cui pare questa camminata con loro all'interno del loro cuore, della loro anima. Ci lasci tutti i riferimenti internet? Sì, Tumuns, c'è il sito di Teatri d'Imbarco.it.eu nel caso di Tumuns, dove potrete trovare i testi. Abbiamo voluto mettere proprio anche i vari articoli della Convenzione Europea sui diritti umani e poi abbiamo anche messo nel sito un piccolo manuale per una messa in scena, in questo caso teatrale, perché ci piacerebbe poi che questi testi e questa modalità anche di raccontare gli anziani potesse essere ripresa liberamente da chi ha il piacere del teatro in qualsiasi situazione, anche nelle più semplici, quindi con un allestimento agile, con attori anziani oppure anche persone che hanno il piacere di portare in teatro proprio per dare voce alla condizione degli anziani che ci riguarda tutti, ecco, per cui è un tema trasversale, ecco, e ci è piaciuto accostare gli anziani a quella che è anche la voce giovane che può in qualche modo difenderlo, ecco, perché la consapevolezza deve essere nell'anziano ma deve essere anche nel giovane. E poi stiamo appunto nella logica di questa miniserie radiofonica con questo network di radio, tra cui ci sarà anche Radio Onda Rossa, appunto la vostra radio, che lo presenterà nella sua completezza. Ci sarà appunto il podcast radiofonico che è interpretato da Beatrice Visibelli con mirabile sensibilità che dà voce a tutte le figure femminili, portando appunto la sua bravura di attrice nel dare vita, nel dare voce a questi casi così forti nella loro verità umana, perché l'ultima cosa, di documentario teatrale radiofonico a questo punto si tratta, ecco. Two Moons, le nostre voci, da lunedì 15 giugno 2020, giornata internazionale contro gli abusi agli anziani, un saluto e un ringraziamento a Nicola Zavagli dei Teatri d'Imbarco. Un abbraccio e in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, grazie per l'attenzione nei confronti del teatro, di cui ne abbiamo tantissimo bisogno in questo periodo difficile per tutti. Con Giulia Nicolai e Francesca Colonia di Better Press per parlare del loro progetto. Ben trovate. Ciao, ciao a te, ciao a tutti. Ci spiegate cos'è Better Press? Better Press è una cosa un po' particolare. Saremo brave a spiegarle in poche parole perché è un misto tra un progetto di archeologia e arte contemporanea. Ci occupiamo di stampa manuale a caratteri mobili e abbiamo aperto un piccolo laboratorio dove all'interno abbiamo iniziato a lavorare per restaurare ed usare vecchi macchinari e vecchi caratteri che appunto venivano usati prima a stampa digitale. Quindi è tutto materiale che abbiamo recuperato nelle cartiere che stavano chiudendo, perché ovviamente non erano più il sistema di produzione e rischiavano di andare proprio al ferro vecchio o nel caso dei caratteri mobili di metallo vengono fusi e ci fanno i piombini per la pesca o le pallottole per il tiro a segno. Quindi abbiamo recuperato tutti questi strumenti, abbiamo conosciuto i tipografi di una volta e abbiamo avuto anche uno scambio di competenze, nel senso che non essendoci scuole più di formazione di questo tipo di stampa, sono stati loro i principali trapiti per i quali abbiamo imparato i rudimenti e poi in realtà abbiamo sperimentato noi, altre più, cercando di trasformare quella che era una tecnica di stampa per la produzione in un discorso di ricerca artistica. E diciamo anche che erano un po' sorpresi che foste due donne. Sì, un po' sì, diciamo che nel mondo della tipografia un po' per la fatica e anche un po' la forza che serve per utilizzare alcuni strumenti, alcuni macchinari, perché appunto sono meccanici, quindi all'interno di una tipografia fino a qualche anno fa, tra l'altro, c'erano uomini, quindi noi ci alleniamo la sera, pensate che riusciamo a spostare questi bancali, perché appunto sono oggetti molto pesanti, i macchinari sono di ferro di ghisa e i caratteri sono di legno, che sono leggeri, ma anche di metallo, e soprattutto quando li recuperiamo facciamo un po' tutto da sole, quindi serve un po' di forza. Nel mondo della tipografia comunque la maggior parte era popolata da uomini, le donne si occupavano più di cartotecnica o durante la stampa clandestina di diffondere le informazioni. Come è nato tutto? Come ogni cosa nasce a caso, ma non è mai un caso. Le cose importanti forse non nascono se vengono troppo pensate o se ci si mette lì a tavolino a fare un business plan. Noi assolutamente niente di tutto questo. Ci siamo rincontrate dopo 10 anni che non ci vedevamo, perché io e Giulia eravamo molto amiche da teenager. E dopo 10 anni ci siamo risentite: ma tu che stai facendo? Ma tu che stai facendo? Io ho studiato questo, io sto facendo quest'altro. E così nasce Better Press, quindi è una fusione tra i miei studi e quelli di Giulia. Si fonde la storia della lingua italiana, prevalentemente italiana, noi sappiamo in italiano, e una forma d'arte, perché appunto io ho studiato decorazione. E quindi scegherando i nostri percorsi viene fuori una tipografia contemporanea, sperimentale, perché ovviamente all'interno del nostro laboratorio non stampiamo digitalmente, non entrano persone con una chiavetta USB, ma si lavora insieme, quindi servono sia le conoscenze di Giulia sia le mie, e insieme diciamo che siamo un po' o le zie dei Simpson o lo Yin e lo Yang, insomma siamo molto complementari. Quindi anche se lì per lì, appunto, da due cose che hanno completamente un'altra strada, perché il mio percorso di studio sulla decorazione e il percorso di studio sulla filologia delle lettere antiche non prevedevano assolutamente quello che riguarda la tipografia, diciamo che ha trovato però poi in questi strumenti, in questa tecnica, in realtà la propulsione ideale per mettere insieme queste due cose, che non è solo il vecchio e il nuovo, è proprio delle conoscenze e una ricerca, una sperimentazione molto affascinante. Sono molte più le cose che si possono fare di quanto uno si immagini pensando alla tipografia tradizionale. A proposito di conoscenze, voi tenete anche dei workshop? Sì, noi teniamo dei workshop più o meno una volta al mese. Sono dei piccoli gruppi che si formano in realtà in un modo molto naturale, perché essendo aperti a tutti può venire sia il nerd del type design che semplicemente una persona curiosa che è affascinata e incuriosita, appunto. Quindi si creano questi gruppi, sono massimo 7 persone, perché seguiamo comunque uno ad uno e lasciamo anche che appunto questi workshop prendano la forma rispetto anche all'atmosfera che si crea con le persone. Essendo tutte persone diverse, può capitare che in un workshop si lavori tutti insieme su un unico macchinario, oppure 7 lavori completamente diversi, che per noi è un po' più faticoso, ma vuol dire che le persone forse già ci avevano pensato, oppure era da tanto che volevano venire o che ci avevano visto e già avevano un'idea ben precisa sulla parola da interpretare in questo senso. Oltre ai workshop, non sono proprio dei workshop, ma con gli studenti dell'Accademia o delle scuole di grafica di Roma abbiamo dei percorsi che gli offrono questa parte di sperimentazione, di contatto reale con quanto hanno studiato in maniera teorica, cosa che è avvenuta ad esempio anche per me, perché l'ho studiato solo sui libri, soltanto che loro, facendo progettazione grafica al computer, diciamo che hanno proprio bisogno di riprendere contatto con una manualità, con una progettazione che è diretta, e quindi poi possono riportare nelle loro elaborazioni delle competenze e anche delle idee più, più più ampie rispetto alle possibilità e alle contaminazioni, ed è un altro modo di seguire, di condividere il nostro progetto con gli altri che ci ha molto a cuore. Attraverso idee e spazi state anche mettendo in piedi nuovi progetti. Perché la follia non si ferma e non consente. Dopo appunto più di 7 anni abbiamo capito che c'era bisogno di questo piccolo delirio, insomma non era soltanto una cosa nostra, che comunque può sembrare, e da un lato lo è, un mondo un po' di nicchia, sia per quanto riguarda i lavori che ci chiedono, sia chi invece viene a, come diceva prima Giulia, a condividere. E noi abbiamo deciso quindi di allargarci, perché c'è comunque un bel via vai, c'è tanta curiosità, tanto interesse, e quindi ci piacerebbe aprire anche una galleria, un piccolo posto organizzato proprio per fare formazione e ricerca nel campo della stampa diretta, della grafica d'arte. Nel salutarci ci lasciate tutti i riferimenti internet? Assolutamente sì, abbiamo un sito che in realtà è un blog, perché il sito vero è ancora in costruzione, noi appunto stampando come nel 500 a livello digitale siamo di una lentezza infinita, www.betterpresslab.com. Poi siamo su Instagram, betterpress_lab, poi siamo su Facebook, betterpresslab, e basta. E se ci volete scrivere per qualsiasi informazione potete usare la mail, che è betterpresslab@gmail.com. Giulia Nicolai e Francesca Colonia di Better Press, un abbraccio, un in bocca al lupo, e a risentirci presto. Grazie, a prestissimo, grazie ancora. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.